Ta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, anche se ancora un bel po' raffreddato, ma comunque sempre sui 103.1 come ogni mercoledì o quasi di Radio Città Fujiko. Ogni mercoledì, dicevo, alle 10.30 all'incirca inizia Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live di ogni genere e di ogni epoca. Naturalmente oltre alla vostra radiolina potete ascoltarci anche tramite il web, andando sul sito radiocittafujiko.it potete scaricare gratuitamente l'apposita app che vi consente di ascoltarci all over the world. Anche oggi siamo al 29 maggio, ultima trasmissione di questo mese, e siamo al 29 maggio 2024, anche oggi la trasmissione inizia con una novità e una ottima novità, anche se diciamo non da tutti, non è di quelle che possono essere ascoltate in macchina o possono essere ascoltate al supermercato o in zone o in cose del genere. È un disco molto tranquillo, molto pacato, molto, molto blues, perché la volta scorsa avevamo Taj Mahal, uno dei grandi del blues, ma stavolta abbiamo Eric Bibb, che è un altro altrettanto grande del blues. Eric Bibb è nato a New York City naturalmente, ed è attivo dal 1962, quindi non è di primo pelo veramente, e dopo vari peregrinaggi per il mondo si è stabilito a Stoccolma insieme alla sua moglie, che invece è finlandese, però lui appunto si è stabilito nella città svedese e lì ha registrato il suo ultimo album, che è un live e si chiama Live at the Scala Theater Stockholm. È il quinto album live della sua discografia, del resto come vi dicevo è stato tuttora in attività dal 1962, quindi di tempo ne è passato, di tempo per fare live ne ha avuto. Questo album è stato registrato il 30 settembre del 2022 con una band, sono sei persone, ma più qualche ospite, che però è sempre abbastanza pacata, abbastanza tranquilla e anche accompagnata in certi momenti da un quartetto d'archi. Il brano che ho scelto per iniziare, per farvi conoscere questo album, lo ripeto, si chiama Live at the Scala Theater Stockholm, quinto album live di Eric Bibb. Il brano è già tutto un programma, si chiama Whole World Got the Blues, tutto il mondo ha il blues, ha il blues in tutti i sensi. Eric Bibb. Papers, blues in the magazines, blues on the radio, blues on the TV screen. Everywhere you turn, you're looking at sad, sad news. Seems like the whole world, yes, sir, the whole world got the blues. in the morning, blues all through the night. I went to see my doctor, she said everything's alright. Still I can't shake the feeling. Can you feel it too? Seems like the whole world's got the blues. Went to church on Sunday to lay my burden down. Not a single soul was smiling. Everybody wore frown. When the preacher said it's hard times, he got an amen from every pew. Seems like the whole world's got the blues. The border, blues in the Middle East, blues running up the alley, creeping up Wall Street. People, what's going on? Can you feel it too? Pray we're gonna make it, 'cause the whole world got the blues. Midnight, and I can't get to sleep. If there's hope for the future, gonna take a quantum leap. Can't shake that feeling. People, do you feel it too? Seems like the whole world got the blues. Seems like the whole world's got the blues. Got the blues. Come sempre nel blues non si inventa niente, ma è sicuramente sempre un piacere ascoltarlo in qualsiasi salsa esso sia proposto. In questo caso Whole World's Got the Blues è un brano scritto dallo stesso Eric Bibb, naturalmente ricalcando i canoni della musica blues, ed è veramente un piacere sentirlo. Tutto questo album, lo ripeto, a The Scala Theater Live, a The Scala Theater Stockholm, è sulla falsa riga di questo brano. Non ci sono picchi rock o altre cose, ma è sicuramente molto molto molto piacevole. Turning gold. E ancora una volta prendo la palla al balzo per ascoltarci delle cose che sono state registrate in questa città, la capitale e città più popolosa di tutta la Svezia, ha oltre 1 milione di abitanti, sto parlando naturalmente di Stoccolma, e è situato in una zona che è stata abitata sin dall'età della pietra, ma in realtà la città vera e propria è stata fondata nel 1252 su varie isole che ancora naturalmente la compongono. È una città molto molto molto musicale, con tantissimi locali e tantissime bands che prima o poi vi farò ascoltare. Stavolta invece ci ascolteremo delle registrazioni, nella prima parte naturalmente, delle registrazioni effettuate a Stoccolma, Svezia. E cominciamo dalla band più sconosciuta del lotto, oserei dire. Si chiamavano Tyler Gang, erano stati formati nel 1975 da Sean Tyler, chitarrista e voce, che aveva militato per lungo tempo in una ottima band della quale però nessuno si ricorda più, ottima band che si chiamava Dax Deluxe. Appunto nel 75 questa band si sciolse e Sean Tyler fondò la Tyler Gang che è vissuta per diversi periodi, si è sciolta e riformata parecchie volte a seconda appunto del pensiero musicale di Sean Tyler. Comunque questo Live in Stockholm che ci andiamo ad ascoltare è stato pubblicato nel 2014, dopo lo scioglimento della band, ed è stato registrato all'Akkurat Bar di Stoccolma, appunto Akkurat con 2K, nel marzo del 2013. Il brano che ho scelto per voi si chiama Dust on the Needle, loro sono Tyler Gang. We'll be right back. like the morning sun. But you must remember, she's as cold as December. I can't remember what I've done. Like the morning sun, but you must remember, she's as cold as December. I can't remember what I've done. Una grande band era quella dei Taste, brand trio irlandese che arrivava da Cork, in Irlanda naturalmente, attivo dal 1966 al 1970, capitanata da quel grande chitarrista che è stato Rory Gallagher, una band che ha fatto la storia della musica irlandese, della musica britannica e della musica in toto, anche se purtroppo è sempre molto poco considerata nell'ambito dell'elite della critica musicale mondiale. Comunque sono state una grande band, e il brano che ci siamo ascoltati è tratto da un quadruplo CD box set molto molto interessante, che comprende l'intera discografia dei Test, erano poi due album, non di più, più qualche live che però qui non è compreso se non parzialmente. Il terzo disco è stato registrato in parte alla Concerthuset di Stoccolma, sempre con la K, nel 1970, e il brano in particolare che ci siamo ascoltati si chiama Morning Sun. William Paul Borsi Jr., per gli amici Willie DeVille. Lui arrivava dal Connecticut, ma si è in giovanissima età recato a New York per suonare in una band che si chiamava Mink DeVille, band che è stata attiva dal 1974 al 1986, poi Willie si è messo in proprio e per una carriera eccezionale, secondo me, anche senza purtroppo grandi riscontri economici. Questo doppio album che vi faccio ascoltare si chiama in realtà In Berlin, anzi accreditato al Willie DeVille Acoustic Trio, ed è intitolato In Berlin. In realtà le ultime 8 canzoni sono state registrate al Burns a Stoccolma il 10 marzo del 2002. Quello che ho scelto per voi è un brano che ho scelto per due motivi. Il primo, perché è un brano di Warren Zevon e quindi quello non fa mai male, e il secondo perché si riallaccia alla trasmissione ultima scorsa, nella quale ci siamo ascoltati nomi, brani con nomi di donna che iniziassero per la C, e infatti questo che ci dice Willie DeVille si chiama Carmelita. So Thank you. Chi segue le mie trasmissioni sa che ogni tanto mi piace entrare nel mondo jazz, mondo a me quasi totalmente sconosciuto, ma con alcune cose che mi piacciono molto, e solitamente queste cose che mi piacciono molto sono ad opera di grandi jazzmen, tipo questo che ci siamo ascoltati, Ornette Coleman, uno dei grandi della musica jazz, del free jazz in particolare, sassofonista ma anche trombettista e anche violinista, quindi suonava un sacco di cose. Il suo primo album come band leader è stato nel 1958 e poi ha fatto tantissimi album live, come del resto quasi tutti i jazzisti che si rispettino. È stato tante volte in Svezia e addirittura a Stoccolma ha pubblicato due album live che si chiamano allo stesso modo, a The Golden Circle Stockholm, volume 1 e volume 2, registrate appunto nell'omonimo locale svedese, il tutto il 3 e il 4 dicembre del 1965, 65, tantissimi anni fa. Una curiosità, nel 1990 la città di Reggio Emilia organizzò un festival di 3 giorni dedicato a lui, con sue performance di altri jazzisti. Insomma, fu una grande festa, mi dicono, perché purtroppo non ci sono stato. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama European Echoes. Veniamo a cose un po' più moderne. Siamo insieme a una band prevalentemente femminile che si chiama Breeders. Loro vengono da Dayton in Ohio e sono attive dal 1989 con parecchi break, poi vi spiegherò perché. In effetti la leggenda narra che originariamente era, non la leggenda, la storia, era originariamente un progetto musicale fra Kim Deal, bassista dei Pixies, in questo caso avrebbe suonato la chitarra, e Tonya Donnelly, altra chitarrista cantante, stavolta dei Throwing Muses, e siccome aveva dei grossi problemi di tossicodipendenza, raccattarono, fra virgolette, anche se non è un gran termine a dire il vero, Kelly Deal, che era la sorella gemella di Kim. Se hai problemi di tossicodipendenza ed entri in un gruppo rock, che non credo che sia la soluzione migliore, comunque questo è un altro discorso. Tonya Donnelly lasciò la band nel 92 e tutto il resto è proseguito fra alternanza di scioglimenti, riunioni, droghe varie e riabilitazioni varie fino ai giorni nostri. Live in Stockholm, l'album che ci andiamo ad ascoltare, è stato pubblicato dal fan club della band, che è anche appunto un fan club. È stato registrato al Gino di Stoccolma il 17 maggio del 1994, quindi comincia ad avere una certa età anche questo. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Saints. Yeah. Questi naturalmente inconfondibili, Green Day, un singolo di tanti anni fa che uscì insieme a tanti altri singoli nella prima parte della loro carriera, vale a dire dal 1987 in poi. Hanno pubblicato tantissime cose dal vivo, si sono un po' calmati purtroppo negli ultimi anni e stanno centellinando appunto le pubblicazioni live. Questo Stuck With Me è stato pubblicato, il singolo è stato pubblicato in due versioni, tutte con canzoni che sono state registrate all'Eros Weiberiskov, spero che si dica così, a Stoccolma il 4 settembre del 1995. In particolare quella che ci siamo ascoltati era When I Come Around. Sempre molto esagitati questi Green Day, andiamo invece a calmarci un attimo con gli Incubus, anche se sembra una cosa abbastanza improbabile, ma loro sono alternanti, fanno cose un po' mosse ed altre un po' meno. Sono attivi dalla California dal 1991, hanno pubblicato fra l'ottobre del 2003 e l'agosto del 2004 quattro album dal vivo, uno di dietro all'altro, e in particolare quello che interessa a noi è questo Live in Sweden, che è stato registrato alla Nexet di Stoccolma, naturalmente, il 18 aprile del 2004. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Wish You Were Here, ma non è quella dei Pink Floyd, è quella degli Incubus. tu fossi qui, dicono gli Incubus nel loro album Live in Sweden 2004, che come dicevo prima è uscito insieme ad altri tre nel giro praticamente di pochi mesi. E permettetemi di concludere questa prima parte della trasmissione con registrazione effettuata in quel di Stoccolma, esorcizzando la mancanza dei concerti di Bruce del weekend. Sapete tutti, spero, che sono stati posticipati, non si sa quando, adesso vedremo quando saranno recuperati, a causa di un problema alla voce di Bruce Springsteen, che cantando tre ore sotto la pioggia a Sunderland in Inghilterra a 73 anni è anche facile che gli succeda qualcosa, ma questo è un altro discorso. Qui invece siamo, lui è suonato innumerevoli volte a Stoccolma, qui siamo nel 1988 al 3 luglio, il Tunnel of Love Tour, che comprendeva un pezzo che mai come ora è di attualità. Bruce Springsteen and the E-String Band, il pezzo si chiama War. Time to give yourself a pat on the back for making looking at this bar, staying on track. Take some time to say a little thankful prayer, come what may. Take the time to take a look at what you learned. It's a long way to a place called peace of mind. Gonna be days when you get weary and the strength to go on is hard to find. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che inizia sempre con la novità che vi propongo nella trasmissione della giornata, oggi tipo 29 maggio 2024, e la novità di oggi è ad opera di Eric Bibb, grande blues singer, grande chitarrista, che abitando ormai da diverso tempo in Svezia ha registrato questo ultimo live alla Scala Citer di Stoccolma, appunto in Svezia, e il tutto il 30 settembre del 2022. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Along the Way, e lui era Eric Bibb. Bring me a little water, bring me a little water now. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, ancora una volta tantissime cose, lo so, sono ripetitivo, sono noioso, ma lo devo dire, tantissime cose, per cui il criterio di scelta ad opera del sottoscritto è un brano per ogni decade. E vi assicuro che non è una scelta facile. Comunque iniziamo subito dal 1971. Di solito quando si parla di supergruppi vengono in mente i Cream, vengono in mente i Blind Faith, vengono in mente Crosby, Stills, Nash & Young. Raramente vengono in mente gli Humble Pie. In realtà loro erano un supergruppo che è stato fondato nel 1969 da Steve Marriott, che era un chitarrista, che era un ex Small Faces, Peter Frampton, altrettanto chitarrista, entrambi cantavano anche, che era un ex Heard, Greg Ridley, il bassista, era un ex Spooky Tooth, Jerry Ridley, altrettanto batterista, era from Apostolic Intervent. Ai più giovani, e forse neanche a loro, anche a qualcuno più attempato, questi nomi diranno poco, ma soprattutto Small Faces, Spooky Tooth, Heard erano veramente grandi band all'epoca. Dopo diverse riunioni, diversi scioglimenti, naturalmente, se ci sono riunioni sono anche scioglimenti, sono attivi dal tuttora con il solo Jerry Shirley, il batterista, come membro originale. Nel novembre del 1971 pubblicarono un doppio album spettacolare, bellissimo, che si chiama Performance Rocking the Fillmore, naturalmente registrato nell'omonimo locale di New York. Erano due long play incandescenti, e però per bissare nell'ottobre del 2013 è stato pubblicato un cofanetto di 4 CD che comprendeva i 4 concerti che la band fece appunto al Fillmore in quell'occasione. Durante 2 giorni facevano 2 set, uno pomeridiano e uno serale. Il tutto registrato il 28 e il 29 maggio appunto del 1971. Il brano che ho scelto per voi è, ad esempio, in questo dischetto che comprende il concerto serale del 29 maggio. Sono 6 pezzi, sono tutte covers, perché gli Humble Pie non è che scrivessero tanto, anzi. Ed è una cover di un brano di un duo soul che era stato molto apprezzato nel corso degli anni. Si chiamavano Ashford & Simpson e il brano invece si chiama I Don't Need No Doctor. 1971, Humble Pie, 29 maggio. Pezzo finale del concerto del 29 maggio 1971 ad opera di Humble Pie in quel del Fillmore East in New York City, il tutto immortalato in questo quadruplo cofanetto bellissimo che si chiama Performance Rocking the Fillmore The Complete Recordings, perché come vi ho detto in precedenza era uscito anni prima invece Rocking the Fillmore solamente in doppio long play. In questo caso l'abbondanza non fa mai male, anche se poi in realtà i quattro concerti immortalati in questo cofanetto si assomigliano tutti. I Don't Need Doctor di Ashford & Simpson nella versione degli Humble Pie era, lo ripeto, il 29 maggio del 1971. Dovrebbe partire qualcosa. Okay, eccolo qua. Comunque oramai il buco c'è stato, per cui andiamo avanti, andiamo con un po' più di calma e arriviamo al 1985, un album, un doppio album che è veramente molto molto molto bello, si chiama Bring On The Night, è un doppio album live, il primo album live della discografia solista di Gordon Matthews Thomas Sumner from Walsed in UK. Voi direte chi? E io vi dico Sting, è più facile ricordarlo con questo nome, il bassista cantante dei Police, che molti di voi apprezzeranno anche in versione solista. Dicevo, questo album è molto bello perché è stato tratto dal Dream of the Blue Turtle Tour, che musicalmente era eccezionale. Infatti Sting era accompagnato da una super band, Daryl Jones, il bassista, suona tuttora con i Rolling Stones. Branford Marsalis al sax è un jazzista molto molto molto apprezzato. Omar Hakim, il batterista, ha suonato fra gli altri con i Weather Report. Kenny Kirkland, il tastierista, ha suonato con tanta gente che è inutile nominarla. E loro facevano praticamente una sorta di rock jazz molto molto intrigante, molto interessante. Poi Sting si è perso per strada, ma questa è un'opinione personale. Consider Me Gone, il brano che ci andiamo ad ascoltare, è stato registrato a Theater Mogador di Parigi il 29 maggio del 1985 appunto, e ce l'andiamo subito ad ascoltare, lui Sting. You can Mogador Theater di Parigi, dovrei pronunciare la francese forse, ma non so come si pronunci. Comunque era il 29 maggio del 1985, Sting e la sua stratosferica band in questo brano che si chiama Consider Me Gone, l'album doppio molto bello, lo ripeto, si chiama Bring On The Night. Chi di voi si ricorda di Sir Robert Frederick Zenon Geldof, detto anche Bob? Lui arriva dalla County Dublin in Irlanda, ha iniziato la carriera e la prosegue tuttora con i Boomtown Rats, che dopo un periodo di scioglimento sono riformati nel 2013. Lui è diventato famoso come fondatore di Band Aid e come autore di campagne a favore dei più deboli e dei meno abbienti. Purtroppo musicalmente non è che abbia fatto faville nella sua carriera solista, ma qui abbiamo un singolo che racchiude un brano in studio che si chiama Crazy e tre brani live registrati in un posto australiano che credo sia una parola aborigena, dirò come è scritta, Gondi Windi. Appunto in Australia il 29 maggio del 1993. Il brano che ho scelto è un classico dei Boomtown Rats, si chiama Rat Trap, Bob Geldof. Screaming in the spine in the high-rise spot. It's a rat trap, it's a rat trap. since you left your right. You're pushing up on a window, but another night is this warm. Vengono da Manchester, partirono come trio, ma poi alla fine degli anni '80 si ridussero a un duo, naturalmente dal vivo si fanno accompagnare da una serie di turnisti come in questo caso. Loro fanno questo genere di musica molto tranquilla, molto rilassata, che piace veramente a tantissima gente. Si chiamano Swing Out Sister, non so se l'ho detto, ma lo dico adesso. Il secondo album live della loro discografia è quello che ci siamo ascoltati, si chiama Live in Tokyo, è stato registrato naturalmente nella capitale giapponese in un locale che si chiama Stellar Ball il 29 maggio del 2005. Il pezzo in particolare, che è quello che ci siamo ascoltati, si chiama Get in Touch with Yourself e loro si chiamano Swing Out Sister. Una cosa che ripeterò, che ripeto spesso e che ripeterò ancora fino all'infinito, oserei dire, è che in Gran Bretagna ci sono dei gruppi che sono assolutamente idolatrati, mentre dalle nostre parti sono sì e no conosciuti. E uno di questi è un gruppo che si chiama Kasabian, è un quintetto che arriva dall'Leicester, anzi arriva, era un quintetto, poi vi spiegherò, ed è attivo dal 1997. Poi a un certo punto due dei membri fondatori se ne sono andati anche abbastanza senza preavviso, e la band è andata a finire nelle mani di Sergio Pizzorno, un italianissimo, e i suoi genitori sono di Genova, ma lui è nato e cresciuto in Inghilterra, cantante e chitarrista. Fra l'altro, se ricordo bene, lui è un grande tifoso di calcio e in particolare proprio del Genoa, e quindi rispetta le sue origini. From For Crying Out Loud è il sesto album in studio che è stato pubblicato nel maggio del 2017. È stata pubblicata anche una deluxe edition che include un altro album che si chiama Underdogs, non quella della Meloni, tutta un'altra cosa, che è stato registrato al King Power Stadium di Leicester, appunto la loro città di provenienza, il 29 maggio 2016. Il brano che ci andiamo ad ascoltare dai Kasabian è un brano che si chiama LSF, che sta per Lost Souls Forever, le anime perse per sempre. Kasabian, 29 maggio 2016. Praise you like I shall. Shoulders, come on, come on, I wanna see ya. Let's do this properly. Yes, brothers, come on. Maggio 2016, Kasabian, a casa, Leicester. Il brano si chiama Lost Soul Forever, fa parte della versione deluxe dell'album For Crying Out Loud, e è tutto registrato appunto in questa giornata nel 2016. Ho meno di un minuto per salutare, ringraziarvi per l'ascolto, darvi appuntamento mercoledì prossimo e lasciarvi nelle mani della novità che vi ho proposto quest'oggi, Eric Bibb. Il brano si chiama River Blues. Ciao a tutti da Nevio. To the river, soothes my soul, just to watch it flow. Might stay all day, looking at the leaves turning gold. said I'm kind, I don't mean. Don't feel like talking, got nothing to say. Please don't preach. Sometimes we can agree to disagree. My mind's acting like a screen. Don't wanna say something unkind, I don't mean. You're right, it's true. I don't make enough time just to be with you. Time and again, it's the same old story, nothing new. About nothing, nothing at all.